Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Il denaro corrompe. E questo non è comunismo, eh? Questo è Evangelo puro. Queste sono le parole di Gesù. Cosa succede col denaro? Il denaro ti offre un certo benessere all'inizio, ma va bene. Poi ti senti un po' importante e viene la vanità. Questa vanità che non serve, ma tu ti senti una persona importante, quella è la vanità. E della vanità la superbia, l'orgoglio. Sono tre scalini, la ricchezza, la vanità e l'orgoglio. Contro che comandamento si pecca quando uno fa un'azione per il denaro? Contro il primo, pecchi di idolatria. Ecco il perché, perché il denaro diventa idolo. I primi padri della Chiesa, anno 200, anno 300, dicevano una parola forte: il denaro è lo sterco del diavolo. È così, perché ci fa idolatri e ammala la nostra mente con l'orgoglio e ci fa maniaci di questioni oziose e ti allunga dalla fede, corrompe. Sono parole molto precise e chiare di Papa Francesco, dette il 20 settembre nella sua residenza di Santa Marta. Parole che naturalmente possono essere accettate o rifiutate, ma hanno il pregio di non lasciare dubbi sul pensiero del Papa. Ecco, come non lasciano dubbi le parole altrettanto chiare e forti pronunciate da Michael Douglas in un monologo del film Wall Street. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Tel del Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Ecco, Mario, sai che sono due estremi fortissimi, lontanissimi, che sono inconciliabili, non rappresentano due mondi che faranno molta fatica a parlarsi. Ecco, prima della trasmissione tu mi raccontavi di un rapporto dell'FBI, un rapporto sorprendente. Che cosa diceva questo rapporto? Sì, l'investigazione contro uno dei più grandi hedge fund, la SEC, di uno degli idoli di Wall Street, Stephen Cohen. E in questo rapporto, sono stati multati per 1,8 miliardi di dollari per essere chiari, si dice che Gordon Gekko, beh, è ora di finirla di quello che parlava, quello faceva che quel parlare, monologo. Esatto, l'autore del monologo che abbiamo sentito in Wall Street, è un idolo negativo. È bene che a Wall Street finiscano di considerarlo appunto un idolo. Quindi è interessante, perché è tutta una storia, riflessione è una storia sulla turbofinanza. Sì, e di immaginario. Cioè, sia quello che ha detto il Papa, sia quello che ha detto Gordon Gekko, sono una costruzione di una visione, di immaginario. Per me sono due estremi, te lo certo, dico subito. Naturalmente. Sono due estremi. Io non condivido tutto quello che ha detto Papa Francesco, come ovviamente non condivido sarei quello che ha detto. Sarei sorpreso se lo condividessi. Senti, no, Pietrangelo. Condanneremo tutta la finanza, così non no, è possibile. Naturalmente non è possibile e non si può fare, non credo che sia quello che dice il Papa. Pietrangelo, ti sorprende a te questo rapporto dell'FBI? Mi sorprende, però se posso riprendere il filo del discorso fatto da Mario, io non credo che siano due opposti il discorso del Papa e il discorso di Gekko. Non sono all'opposto perché sono due parti in commedia, anzi in tragedia sarebbe il caso di dire, perché trattandosi di vicende terrene e di gestione di tutto ciò che è terreno e quindi del potere, il potere adotta spesso queste due maschere, quella del bene e quella del male, certo. Laddove con una categoria del passato ottocentesca descriveva il percorso semplice, la guerra del sangue e dell'oro, la guerra del sangue di chi infatti fa testo soltanto sulla propria storia, la propria identità, e la guerra dell'oro invece di chi fa testo creandosi un'identità al di là dei confini, al di là delle storie, al di là perfino degli stessi continenti, per cui il denaro, come dicevano i latini, non olet, non puzza, certo. E arriva dappertutto. Ecco, per noi però oggi denaro vuol dire soprattutto euro. una moneta della quale in un momento di difficoltà come questo si discute molto, a torto o ragione, chi lo difende, chi lo attacca. Professor Guarin, autore del saggio La verità sull'Europa e sull'euro, la creatività italiana, che ha portato l'Italia negli anni 70-80 a essere la quarta potenza industriale del mondo, che fine ha fatto nell'epoca dell'Europa di questo euro? È finita. Si era creato un meccanismo virtuoso che produceva quel risultato. Partiva dallo Stato sociale, nessuno ci crederebbe, ma è così, e dall'ampiezza della domanda interna. Era favorita dal fatto che la domanda era tutta interna, i cittadini prestavano soldi allo Stato e lo Stato pagava gli interessi. Alla fine i cittadini avevano una liquidità che superava il debito pubblico. Perfetto. Di un punto a un punto e un quarto. Ma nel mondo globalizzato era un processo irreversibile? Le norme che sono state introdotte sono diventate irreversibili. Quindi bisognerebbe cambiare le norme, cosa che come vedremo non mi sembrano troppo semplici, anzi impossibili. Professor Guarino, i trattati dicevano che l'euro doveva garantire una crescita duratura e sostenibile dell'economia e un miglioramento della qualità della vita e un pieno impiego tendenziale. Non è così. Perché? Non si ottengono perché bisogna distinguere. Alcune limitazioni sono state accolte con il consenso e consapevolmente. Erano quelle necessarie, un primo periodo reso necessario per omogeneizzare le economie che sarebbero entrate a far parte del mercato comune. È venuto meno per una ragione molto semplice. Invece di applicare le regole che erano state studiate dai padri fondatori, quelle regole che erano state studiate attentamente, che avrebbero garantito il progresso nell'economia con quelle caratteristiche, quelle norme non sono state applicate. Ma volevo dire, nella trattativa che abbiamo fatto, l'Italia ha fatto qualche errore nella trattativa per entrare nella... No, nella trattativa no. E dopo, l'errore è venuto dopo. La trattativa è quella che ha portato alla redazione, tra l'altro, per l'Unione Europea, e che è dovuta soprattutto a questi tre grandi personaggi. Certo. Ecco, ma, professor Guarino, il pareggio di bilancio, che è invocato adesso dall'Europa a guida tedesca e impedisce le politiche di sviluppo, lei, lo ha detto testualmente, non è contemplato dai trattati. Chi l'ha inventato? Allora, chi l'ha inventato? Questo è il grande mistero. Noi possiamo dire quali erano gli organi che l'hanno adottato. Cioè, i burocrati di Bruxelles, per dirla in un modo che si capisca. Distinguiamo gli organi formali che l'hanno adottato, senza il cui consenso non avrebbe potuto essere introdotto, sono la Commissione del Tempo e il Consiglio Europeo del 1996 e del 1997. Io non ho mai detto i nomi per non fare polemiche con persone che sono ancora viventi. Ma probabilmente la invenzione è dovuta a qualcuno degli uffici della Commissione. Quindi non abbiamo verbali, non siamo in grado di costruire... Cioè, è una cosa veramente un po' misteriosa. Ecco, ma allora, il limite del 3% che viene da questo mistero può essere superato senza subire una procedura di infrazione dall'Europa? Se noi chiariamo, come deve essere chiarito, come è obbligo chiarire, che ho applicato il trattato e non il regolamento, ecco, certamente sì. Quindi le condizioni... Scusa un secondo che ti interrompo, trattato in vigore e il trattato di Lisbona. Certo, naturalmente. Quindi ci sono le condizioni previste per sforare il tetto, per essere semplici. Certo, perché proprio per iniziativa del nostro Carli, nel testo definitivo dell'articolo 104c del trattato, che è la norma che regola la materia, si è detto che non era innanzitutto il 3% che deve essere applicato come numero secco. 3% va tenuto conto della tendenza. È tendenziale, quindi. Tendenziale. Se c'è una tendenza di avvicinamento, oppure se il superamento non è dovuto al fatto dello Stato, si può. Ecco, allora, per capire e banalizzare, ma forse non tanto, per pagare per esempio l'IMU, che è un problema sul tavolo del governo, si potrebbe benissimo sforare il 3%. Ah, io ti dico senz'altro sì, e ritengo anche che nelle circostanze attuali sarebbe conveniente farlo. Perché le condizioni favorevoli per indebitarsi oltre il 3% ottenendo un risultato di sviluppo esistono tutte. Tutte. Ma un'Europa gestita così fa solo gli interessi della Germania? I tedeschi sono persuasi che questo corrisponde al loro interesse. Secondo la mia opinione, loro sono colpiti come tutti gli altri paesi dell'euro. Perché la Germania, mentre gli altri tutti i paesi dell'euro hanno ricevuto un danno consistente. Che si vede, è visibile nella vita. Della nostra ricchezza collettiva. collettiva, certo, del 1999 e la nostra ricchezza collettiva di oggi. Sì. Anche la Germania, perché la Germania aveva avuto maggiori possibilità di svilupparsi in un mondo che si è tutto sviluppato in modo straordinario e non si è sviluppato. Certo, quindi l'incubo dell'inflazione in qualche modo ha bloccato lo sviluppo. Non c'è dubbio, secondo me è la causa specifica. E fino a quando resterà in vigore, o venisse applicata quella norma, in vigore no, perché non avrebbe dovuto mai essere in vigore, fino a quando verrà applicata la norma del pareggio di bilancio, è certo che l'economia di tutti i paesi continuerà a decadere. Lei dice che con la creazione dell'euro c'è stato un colpo di Stato. In parole semplici, mi dice perché? Molto facile, sì. Individuarlo, se uno lo chiarisce è molto facile, sì. Perché la disciplina elaborata da Pearl, da Delors e da Carli, sì, ed approvata da tutti gli stati con le procedure di approvazione dei trattati, era fondata su due poteri, perché tu non puoi dire la crescita, devi conferire i poteri per realizzare la crescita. Naturale. E questi poteri erano esattamente individuati, erano ciascuno Stato, poteva elaborare, doveva elaborare la propria politica economica in funzione della crescita, nell'elaborare la politica economica in funzione della crescita avrebbe potuto indebitarsi. E allora, professore, questi due poteri sono stati eliminati. Sono stati esautorati. Una cosa importante è che sono stati sostituiti da due doveri. Certo. Il primo dovere è di realizzare il pareggio di bilancio a medio tempo. Il secondo dovere di realizzare il pareggio di bilancio a medio tempo seguendo un programma prestabilito dalla Commissione. Certo, quindi è un programma, diciamo, tecnocratico in qualche modo. Non assolutamente, un programma predeterminato e prefissato con un risultato uguale per tutti. I programmi erano anno per anno diversi da uno Stato all'altro, però l'obiettivo e il risultato e il metodo per raggiungere il risultato erano uguali per tutti. Professore, ma allora, per chiudere, che fare? Cioè, qual è la soluzione possibile? Euro forte, euro debole, divisa del... Qual è la soluzione possibile? La soluzione, secondo me, di due tappe. Intanto, esigere la rigorosa applicazione del trattato. Numero uno. E se viene emesso un ordine, un'indicazione, qualche cosa che ci riguarda, bisogna dire, dimmi la norma sulla quale, in base alla quale tu mi chiedi questo. Chiarissimo. Secondo punto, se non facciamo nulla, il principio del pareggio di bilancio continua a sacrificare, certo, l'economia di ciascuno Stato. Se invece vogliamo trovare una soluzione, e la soluzione è soltanto quella dell'unità politica, ma intanto ci si può indebitare per rilanciare l'economia, è impossibile immaginare che da 15 anni noi non applichiamo in realtà la norma che dovremmo applicare, il trattato, e applichiamo delle norme che nessuno Stato aveva approvato. Appunto, siamo vittime di un golpe, in questo senso lei dice un golpe. Quindi ci vuole qualche politico, la politica, che riprenda il sopravvento e faccia valere gli interessi dei popoli. Ma in qualche modo. Il compito dei politici di oggi è di essere implacabili nell'esigere l'applicazione del trattato. E questo è un mandato da dare al governo. E rifiutare nel modo più fermo, sì, e anche con caparbietà, come dice Carli a proposito dell'azione da lui svolta nell'istituto finale del trattato per l'Unione Europea, esigere con caparbietà che si applichi solo, certo, il trattato. E quindi, per chiudere, professore, questo ci dobbiamo aspettare da Letta in Europa? Ma io penso che il politico che prende questa iniziativa in questo senso potrà avere un grande sviluppo, perché dall'Italia il fenomeno si allargerà agli altri paesi. E io dico una sola cosa: se riuscissimo a unire i quattro paesi mediterranei che vengono i soldi indicati, la Grecia, la Spagna, il Portogallo e l'Italia, aggiungiamo la Francia, sarebbe la seconda economia del mondo. Grazie professore, grazie mille. Grazie a voi. Ecco, ricordo a tutti il nostro numero verde 800 24 00 24, l'SMS 349 238 6666, questa alleanza comunque in qualche modo competitiva tra Italia e Germania ha una lunga storia in tutti i campi, anche nel calcio. Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo. L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Una finale grandiosa, punteggio inequivocabile. Ecco gli applausi anche di Schmidt. Questo per rilassarci un po'. Tobias Piller, corrispondente economico in Italia della Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ecco, Tobias. Buongiorno. Buongiorno. Questa Europa a guida tedesca è un male per tutti, l'ha detto ieri anche l'Unione Europea. Ecco, lo sapete anche in Germania? Ve l'hanno detto? Mi fa proprio ridere, anche amaramente, perché senza semplificare troppo, così, quando io ci credo in tutte queste manovre adesso di fronte alla Germania, quando i siciliani manderanno una troica italiana alla Lombardia per dire ai lombardi dovete rallentare, avete troppo successo. Ecco, abbiamo qui Pietrangelo che può darsi che stia organizzando la troica. No, ma io mi auguro che la Sicilia venga commissariata al più presto e che, che torni quel grande tedesco siciliano musulmano che era Federico II, che torni al più presto, ma allora, commissariare la Sicilia di corsa. Senti, Tobias, però non lo diciamo noi, lo dice l'Europa oramai. Che forse la paura dell'inflazione, che per voi è un retaggio storico molto comprensibile, però adesso è un freno per lo sviluppo e in qualche modo rallenta e sfascia l'Europa in un momento in cui le altre economie viaggiano veloci. C'è questo problema, non si può negare. Guardi, il punto è semplice, come dice anche Mario Draghi, senza una stabilità della moneta tutto è niente. Perché non vale la pena così investire e guadagnare soldi se poi questi soldi guadagnati in futuro non si sa quando varranno. Ecco, questo è vero, però resta il fatto che appena il governatore della BCE, appunto Draghi, inizia a fare delle politiche che possono aiutare lo sviluppo, è messo sotto accusa in modo violentissimo, come è capitato l'altro giorno, proprio in Germania. Allora, insomma, possiamo assottigliare un po' anche gli argomenti che ho sentito dal professor Guarino, con tutto il rispetto, ma mi sembra che lui sia rimasto negli anni 80, nei tempi della lira, così. Da un lato abbiamo fatto degli accordi così in Europa. Ha spiegato che questi accordi vanno interpretati molto bene. Sì, ma il punto è quello, lo spirito di base di questi accordi era che se si mette insieme la moneta di vari paesi, certamente ci sono dei rischi che uno furbo si comporta male e butta così i costi del mal comportamento sugli altri. Quando c'era la lira e l'Italia si è comportata male, aveva subito la svalutazione e l'inflazione e così doveva portare i costi da sé. C'è Mario che vuole dire una cosa. Buongiorno Tobias. Buongiorno. Ma ti faccio una domanda provocatoria, ma i furbi siamo noi? Sì. Adesso sembrano i tedeschi, sì, i furbi. Sì. Quindi, allora tu pensi che i furbi siano gli italiani, l'Italia diciamo, no? Sì, il punto è quello che la ricetta del professor Guarino è la ricetta della euro-lira, così diamo all'Europa una lira come l'abbiamo avuto negli anni 70. E voi invece avete voluto l'euro-marco, un euro-marco, invece che, mi pare che quello ci sia. Vi rendete conto che la Germania non avrebbe abbandonato il marco senza avere la garanzia di una moneta. Siamo all'euro-marco. Dico un'altra cosa. Prego, ma scusi. L'Italia ci ha fatto di tutto negli anni 90 per entrare in questo euromarco e poi ci ha goduto di interessi così bassi che la prima volta gli italiani si sono potuti comprare la casa con un mutuo, perché prima non si poteva fare. La casa agli italiani l'hanno comprata da sempre. Veramente. Da sempre. C'è Luigi da Verona, sì. Tobias, un secondo, c'è Luigi da Verona, così diamo voce anche agli ascoltatori. Prego. Sì, buongiorno dottor Minoli. Senta, il problema che viene trascurato dai media è che la BCE non è un ente governativo, la BCE è un SPA privata che fa gli interessi degli azionisti, cioè cerca il profitto. Il problema fondamentale è la sovranità monetaria. Certo, naturalmente. L'euro viene emesso come fosse emesso da un falsario, che si appropria del valore nominale. Giusto. Grazie. Grazie, questo in qualche modo è ovvio ed è lì, in quel margine lì, che ci sta la lotta di Draghi, sembra, no? Sì. Prego, Tobias. La questione è quella, per gestire la politica economica o l'economia di un paese ci sono tantissimi strumenti, no? C'è la politica del mercato del lavoro, c'è politica di crescita, liberalizzazione sì o no, sì. Ci sono questioni congiunturali e un sacco di cose. E adesso con la Banca Centrale Europea, così tutti i paesi hanno reso uno strumento, è quello di determinare interessi a una banca centrale e poi quella deve gestire soprattutto l'inflazione, ma il resto si può gestire benissimo. Molto poco si può gestire. La banca centrale non può gestire. Tobias, si può gestire molto poco, e se l'Europa sente il bisogno, l'Europa, di tirare le orecchie alla Germania, qualche ragione ci sarà. Continuiamo a parlare di euro, di sviluppo, dopo la pubblicità. Mix 24. Il motore del 2000 sarà bello e lucente, sarà veloce e silenzioso, sarà un motore delicato, avrà lo scarico calibrato. È il motore del 2000 di Lucio Dalla, dall'album In Europa. Al mio fianco, come sempre, Pierangelo Buttafuoco, Mario Secchi, in collegamento il giornalista economico tedesco Tobias Piller, per chiamare 800 2400 24 349 per gli sms, 349 238 6666. Segnalo, molti durante la pubblicità, molti radioascoltatori ci hanno chiesto se è in vendita il saggio del professor Guarino. È pubblicato per adesso in serie sul foglio. Tobias, ma il rischio, grazie intanto di averci aspettato, ma il rischio della deflazione invece dello sviluppo non lo vede con questa politica? No, vogliamo ordinare le cose. Ci sono tre elementi. Da un lato, la politica monetaria non può far tutto, è certamente la deflazione del diavolo, ma sono paesi che hanno aumentato troppo i prezzi e i salari, come la Grecia, adesso devono abbassare ambedue. E così, se hanno abbassato i salari, adesso i commercianti devono abbassare i prezzi dei prodotti, e questo non è l'elemento della deflazione tipo giapponese, dove si aspetta il prossimo mese perché i prezzi scenderanno. No, lì è si contentano di poter comprare qualsiasi cosa. Ecco, ma Tobias, siamo in chiusura. Per i paesi mediterranei un euro, un altro per il nord Europa, non potrebbe essere una soluzione? Da un lato potrebbe essere una soluzione buonissima. Dico comunque che lasciare l'euro per l'Italia comporterebbe che dovrebbe fare di colpo subito tutte quelle riforme strutturali. Non ho detto quello. Chiedevo i 2 euro. Dovrebbe fare tutte queste riforme che finora non vuole fare. L'Italia può essere il paese più ricco dell'Europa con il Made in Italy, le risorse naturali e la sua cultura, ma così certamente aumentando la spesa dello Stato non lo può fare. E lì così la frase che voglio dire: l'euro e la politica della banca centrale non possono sistemare tutto. Ci vuole ben altro a sistemare i problemi dell'economia europea, e in quella così l'euro è una base stabile. Se rimane così, certamente c'è anche la bellezza di mantenere i vecchi trattati, perché rompendo i vecchi trattati, sì, ma i vecchi trattati tutto, quando mai facciamo un altro trattato, Tobias, con l'Italia, se il vecchio non vale? Tobias, i vecchi trattati ci hanno spiegato che vanno interpretati per davvero, non lasciati gestire dagli eurocrati. Volevo chiedere un'ultima cosa. Sì. Draghi arriverà a tasso zero per dare impulso allo sviluppo? Già adesso si vede che quell'abbassamento dei tassi di interesse servirà solo a finanziare a prezzi più bassi i debiti dei debitori del sud Europa, e non porterà quindi molto avrà sviluppo. Quindi non avrà molto. Avrà vita dura alla BCE, Draghi, sì. Mi pare di capire. Direi che ci saranno un po' di delusioni in Germania, ma poi tutto quell'abbassamento del tasso di interesse è una panacea, non risolve i problemi. Va bene, grazie Tobias. Adesso passiamo alle nostre bolle di attualità per aggiungere notizie, testimonianze nella nostra pentola. Lo ripeto, chiamate l'800 24 00 24, gli sms 349 238 6666. Still with me, American woman. American Woman, perché? Perché? Perché Mario? Janet Yellen sta cominciando il suo lavoro alla Federal Reserve, sapete tutti che sostituirà Ben Bernanke, ha cominciato a dare un po' di assaggi di quella che sarà la linea, dice che la ripresa americana c'è, ma non è ancora abbastanza forte. I mercati stamattina hanno interpretato queste parole con la diciamo conferma della politica espansiva americana per il momento, quindi tutte le operazioni di liquidità che sta facendo. Che sta facendo, sì. Meno tasse sull'impresa, meno tasse sulle famiglie, meno tasse sul lavoro. 20 anni dopo? Siamo al Vietnam, siamo fiscale. Vorrei epilogare solo sulla spazzatura, o monnezza, o rumenta, o come la volete chiamare. Tar su tale strise, tasi, tari, tucca, adesso pure tul. Noi non possiamo mandare il nostro tormentone perché oramai è vecchio. Gli mancano le ultime tasse. Mi dispiace per Sara Tardelli. Gli mancano le ultime due, la Tardelli dovrà aggiornare perché la tucca e la tul ancora non erano state create. A Milano hanno spedito 450.000 lettere ai cittadini per chiedere chiarimenti su dove abitano, quanti metri quadri. Vi risparmio l'ecatombe fiscale. Però dall'altra parte del mondo, qui siamo in Cina, mi sembra, direi China. Senti, no, una cosa brutta, però io la voglio sottolineare: il governo cinese ha mandato all'inizio solo $100.000 di aiuti per essere l'economia che tira il mondo, non è un grande sforzo. Alle Filippine sono stati sommersi di critiche e hanno fatto uno sforzo, chiamiamolo così, $1 milione. Io penso che, insomma, dalla Cina, dalla loro grande cultura, ci si possa aspettare anche altro. Senti, un SMS che mi sembra interessante di Giancarlo, che dice: vorrei solo dire che prima bisognerebbe equiparare i consensi dei parlamentari, dei funzionari statali, governatori della Banca d'Italia a quelli tedeschi e poi prendiamocela con la Germania. Su questo siamo d'accordo, abbiamo fatto la puntata ieri. Vai, andiamo avanti. Uccellini. È interessante perché lo short selling, cioè comprare titoli che non hai e poi rivenderli cercando di farci sopra un guadagno, si chiamano vendite allo scoperto, comincia a girare intorno a Twitter. Questo è da segnalare perché significa che ci si aspetta un calo abbastanza considerevole del titolo, per cui su questo poi si realizzerà un guadagno. Ricordo solo che il titolo era stato piazzato sul mercato a $26, oggi è valutato 42. Se dovessimo guardare i dati dei ricavi, Twitter è valutato oggi 176 volte rispetto alla realtà, diciamo. Io non sono molto convinto. Sembra che lì ci sia una bolla che sta per esplodere e non è in pentola. Potrebbe fare molto male. E invece, parlando di crisi, questo è dedicato a Enrico che ci ha scritto. Cosa vive scritto? In Grecia. Ha detto: vi seguo dalla Grecia. Bello. Beh, vabbè, il Sirtaki. L'articolo più bello che ho letto, almeno fino a stamattina all'alba, era sul Wall Street Journal. In prima pagina, è fantastico, è la storia di un pubblicitario che si è reinventato un mestiere, perché in Grecia l'ha perso, come tantissimi. E vende souvlaki. Vende souvlaki, che è uno dei settori trainanti, perché quando c'è crisi due cose vanno forte: il Big Mac in America e, a quanto pare, il souvlaki in Grecia. Butta fuoco. No, io vorrei ricordare le stigliola in Sicilia, molto. Ah, certo, funzionano. Funziona, altro che kebab. Qui c'è concorrenza. Rolls Royce non fa solo splendide macchine di lusso, fa anche motori per i jet. Alcuni di questi, delle parti dei motori, verranno stampate in tre dimensioni. È molto interessante. E infine, mamma ce n'è una sola, mamma ce n'è una sola, oggi le mamme non hanno più capelli bianchi. Al liceo Mamiani sono tutti senza padre e madre, nel senso che... Liceo Mamiani di Roma. Di Roma, ovviamente, di Roma, va da sé. Sono tutti senza padre e madre perché varano i nuovi libretti delle giustificazioni, non ci sono più sessi, ma genitore 1, genitore 2. Ah, questa è la nuova regola al Mamiani. Yes, sir. Ecco, sento un po' odore, profumo di salamini. Salamini al Quirinale, oggi Sua Santità Papa Francesco, nonché Vescovo di Roma, si reca a far visita al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. E la visita è stata organizzata senza troppe pompe, senza orpelli, senza spese, per andare incontro a questo sentimento di mestizia che investe tutti quanti, ma soprattutto per strizzare l'occhio ai cosiddetti anticasta, alla gente con tutte quelle G da mettere davanti. E poi insomma finisce che tutta sta gente che arriva nei posti chiave, invece di dire Pinochet, dice Pino c'è, come se fosse la marca famosa evocata. Avete una borsetta della Che Guevara? No. Bene, Renato Raschel, almeno il corazziere, mettetelo. Crescerò, ma in attesa mi farò i tacchetti alti un metro un po'. Quando noi di scorta andiamo appresso a una vettura, noi dobbiamo essere tutti uguali di statura. Io perciò cammino tutto. Dopo la viabilità parleremo di diritto d'autore, però segnalo che molti ci hanno scritto che il Medeuro sta facendo strada. Non credo, dice Manlio da Monza, che la Germania ne sarebbe felice. Mix 24. Sono le 9:47 e un secondo. Oggi non parliamo di televisione, ma parliamo di qualcosa che riguarda il mondo della comunicazione, cioè degli autori che fanno televisione, cinema, musica, perché il Made in Italy è anche questo: idee, cultura, creatività. La Procura di Milano indaga la Apple per frode fiscale di oltre 1 miliardo di euro. Il sistema Apple è lo stesso autorizzato da Google, cioè operano in Italia ma fatturano in Irlanda. Ecco il problema. Si tratta quindi di tassare queste multinazionali per i soldi che guadagnano in Italia, come sostiene l'onorevole Boccia, che ha fatto una proposta di legge in questa direzione. Luca Scordino, avvocato nel consiglio di gestione della SIA. Ecco, voi difendete il diritto d'autore contro gli interessi delle multinazionali che rivendicano la libertà di rete. Perché? Quale rischio volete? Qual è il rischio di volere tutto gratis? Buongiorno dottor Minoli, il rischio è quello di disperdere creatività e cultura. In realtà gli autori e con loro gli editori vivono del loro lavoro, investono nel loro lavoro. La dematerializzazione delle opere in rete non può giustificare l'assenza di protezione. Guardi, Boccia si riferisce a un'emorragia di risorse finanziarie oltre che un mancato gettito erariale. Il problema non è solo fiscale, bisogna pagare il diritto d'autore. Ecco, ma per provare a capire bene, i sostenitori della libertà della rete dicono che il loro diritto di usufruire di contenuti gratis è un aspetto della libertà di informazione. E voi cosa pensate? Ma questo è l'equivoco più grave, più strumentalizzato. Già da molto tempo la nostra Corte Costituzionale, era il 1973, ha chiarito che il diritto d'autore non è in alcun modo incompatibile con la libertà di manifestazione del pensiero. Quando ci si appropria per proprio vantaggio dell'opera altrui, non si sta manifestando il proprio pensiero, e questo è anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Cioè, un furto e basta. Ma guardi, io credo che né lei né Sechio Buttofuoco, che ascolto sempre molto volentieri, abbiate mai sentito una qualche limitazione nella vostra attività di creazione di cultura per via dell'esistenza del diritto d'autore. Al contrario, credo che il diritto d'autore vi abbia sempre aiutato. Senta, ma l'industria culturale italiana, quindi la ricchezza da tutelare, parliamo di questo, è quella a cui si riferisce l'onorevole Boccia. Quanto vale? Di che cosa parliamo? Ma le ricerche più recenti ci dicono che l'industria culturale rappresenta il 5,4% del PIL nazionale e occupa 1,5 milioni di lavoratori. È l'unica industria che in realtà è rimasta tutta italiana. Se poi facciamo qualche raffronto scopriamo che vale molto di più di altri settori che sono considerati più strategici. Se mi passa una battuta, di nuovo, lei sai che butta fuoco e ascolto sempre volentieri, assieme valete di più della Fiat, perché l'industria culturale vale indotto compreso il 15% del PIL, l'auto vale l'11%. Se poi si aggiunge la pirateria, il conto è fatto. Credo che Boccia sia uno dei pochissimi che si è posto il problema, che ha capito di nuovo che è un problema che appunto tutela poi alla fine l'arte, il Made in Italy, insomma una parte significativa della qualità di quello che si può fare. Mario, volevi fare una domanda all'avvocato Scordino? Quali possono essere, buongiorno avvocato, buongiorno. Quali possono essere gli strumenti per tutelarlo? Perché come lei ben sa, noi in questo poi abbiamo un'esperienza diretta, essendo creatori, di fatto autori, come si può tutelare il lavoro di tanti che creano, che inventano, che scrivono, che suonano? Perché è un problema gigantesco anche arginare il fenomeno. Lei ha in mente qualche strumento? Ma guardi, la legislazione in realtà esiste, ed esiste sia a livello nazionale che a livello comunitario. Dal punto di vista comunitario, che in questo momento forse è la sfida più importante, ciò che bisognerebbe rifare ciò che bisognerebbe fare è riprendere l'aggiornamento delle direttive europee per avere una normativa comune, soprattutto in materia di pirateria. E qui vorrei segnalare che l'AGCOM sta adesso sta immaginando di adottare un nuovo regolamento proprio in materia di pirateria, e oggettivamente subisce parecchie pressioni contrarie da alcuni rappresentanti del nostro Parlamento. Avvocato Scordino, c'è avvocato, Pietrangelo. Buongiorno avvocato, sono Buttafuoco. Una domanda: secondo lei perché il governo, anzi i governi italiani, non hanno mai fatto nulla per tutelare il patrimonio culturale, un po' come hanno fatto i francesi? Basti guardare per esempio la programmazione di Sky dei film, si capisce perfettamente che sono delle porcherie prese dal deposito della generica produzione statunitense. Perché non si fa come in Francia, secondo lei? Ma guardi, la ragione per la quale in Francia esistono delle discipline che tutelano la produzione francese, in Italia no, questo diciamo sono scelte evidentemente politiche sulle quali non posso entrare, però ripeto, la normativa esiste. Insomma, esiste la normativa, basterebbe applicarla. La ringrazio, avvocato Scordino. A proposito di diritti d'autore, non c'ho più voce oggi. Roberto Cicuto, che è l'amministratore delegato di Luce Cinecittà, è a Los Angeles. Ecco, Roberto, com'è stato accolto La grande bellezza a Los Angeles? Ieri sera c'è stata, no, l'altro ieri sera, una proiezione stampa a New York, e le recensioni oggi di tutti i giornali sono entusiastiche. Oggi abbiamo avuto la conferenza stampa con Paolo Sorrentino, e dall'interesse dimostrato sia dai giornali locali che da quelli dei blog, eccetera, e insomma ci fanno ben sperare. Insomma, quindi abbiamo qualche speranza per un buon risultato all'Oscar? I giochi degli Oscar non dipendono quasi mai dalla qualità dei film. Credo che questa volta l'attenzione verso il film sia molto forte, quindi incrociamo le dita. Bene, speriamo bene. E senti, avete presentato anche restaurato in 3D L'ultimo imperatore di Bertolucci a Los Angeles, no? È stato un trionfo dal punto di vista della presenza, c'erano 1200 persone, mezza Hollywood e moltissima gente normale. La cosa straordinaria è che il film dal 3D, invece di, come dire, arricchirsi solo di effetti speciali, si arricchisce di immagini e di colori, ed è una cosa per me sorprendente, perché d'abitudine insomma vediamo queste pietre che ci arrivano addosso, invece in questo caso abbiamo visto sentimenti che ci arrivavano addosso. Ecco, quindi è stato presente, ma quando avesse detto che usciva dopo l'inizio del film per tutta la proiezione, e ha detto che l'ha trovato un piacere della vista e dell'udito, nel senso che la tecnologia del Chinese Theater strutturato era, diciamo, straordinariamente confortante. Ecco, grazie. Ricordo naturalmente la notizia in 3D è stata curata da Sara Tardelli, e dopo il giornale radio vi raccontiamo la storia della banda della Magliana. A seguire un'intervista al giudice scrittore Giancarlo De Cataldo, con il dietro le quinte del racconto della Roma degli anni 80, storia curata da Marina Milone.